le 7 e una manciata di secondi. È un lunedì 11 febbraio 2008, l'anno della svolta. Negli studi di Rock FM, Mr. Trombetta è pronto ad augurarvi una splendida giornata. Ehi! Con tutto il buon umore, con tutto quel carico di buon umore che sempre si trascina dietro. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Mettetevi comodi, dai, oggi non si va a lavorare, facciamo così. Oggi facciamo festa, vi va? Molla tutto, dai. Pane, burro e rock and roll. La giustificazione la facciamo firmare da Fricantoni. La tua colazione rock. Lo conoscerà il vostro capo Fricantoni, no? Pane, burro e rock and roll. Eh sì, Fricantoni mi ha detto di non venire al lavoro, io non ci sono venuto. Domani torno però. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Io. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buongiorno anche dall'Ariele, dai via, mi ci metto anch'io, ovviamente dal nostro spadino tecnico regista di Pane, Burro e Rock and Roll. Il primo saluto però va a Monica, patentata 1008, che fa parte degli ascoltatori del gruppo fazionato che ascoltano dalle 7 alle 7 e 3 minuti, quindi tra qualche minuto Monica molla. Però ci chiede strombazzata, intervento subitaneo per colloquio psicomotivazionale di oggi, che già mi fa paura. Cos'è un colloquio più psicomotivazionale? Presso la ASL in cui lavoro, la mia patente è già pronta, grazie, saluti da tutto il comparto sanità. Bella Monica, la strombazzata è arrivata, facci sapere domani tra le 7 e le 7.03 come è andata il colloquio psicomotivazionale. Eh sì amici, funziona così a Pane, Burro e Rock and Roll. Abbiamo un numero di SMS, una casella di posta elettronica, siamo sempre pronti a strombalzare nel caso qualcuno di voi ne abbia necessità. La strombazzata sembra sia benaugurante, almeno è quasi certificato. Puntata numero 180, quella che andiamo ad affrontare. Ovviamente parecchie le stupidate che vi faremo sentire. Getto un'occhiata di sconforto alla scaletta. Che casino, ragazzi. A voi della prima ora vi mancano ancora Stairway to Heaven col Kazoo e la seconda puntata di Zorrock. Da qui a venerdì sicuramente ve le faremo sentire. Diamo inizio, va. Keep it all in place. Work your way right into my face. First you try to bend me and make my backbone slide, but when you find you bend me, skip on by, keep on. Something. Give me the business of that. Together, boy. Show me something. Lunedì è sempre un dramma comunque. Sì, inizio a levare. È sempre un dramma, sai perché? Per la casella di posta elettronica, che è sempre gonfia di messaggi. Che nel weekend, con calma, mi scrivete all'indirizzo aria@radiorockfm.com. Quindi ci sono sempre quella dozzina di richieste del calendario 2008, l'anno della svolta, che già mi fanno bollire lo stomaco. Dopodiché noto che la vera, il vero punto di discussione di questo weekend, il dubbio che vi abbiamo lasciato dalla settimana passata di Pane, Burro e Rock'n'Roll, si chiama Jerry Phillips. È lui ormai il vostro eroe. Vi abbiamo mostrato, come solo noi di Pane, Burro e Rock'n'Roll sappiamo fare, un video che è pubblicato su YouTube. Noi ve l'abbiamo fatto vedere in radio, quelle cose che di solito non si possono fare, ma essendo noi dei rocker le regole le infrangiamo. Quest'uomo che riesce a suonare gli AC/DC con le mani, stringendo le mani, facendo le cosiddette scoreggette con le mani. Ecco, in molti scrivono: no, ma non è vero, c'ha una membrana, no, ha un sacchettino, no, quello è un microfono. E allora guardate, vi faccio vedere questa. Non si parla d'altro, si parla di Jerry Phillips. Vabbè, sappiate che nel corso di questa settimana proporremo un altro brano suonato da Jerry Phillips. L'altra volta erano gli AC/DC, il prossimo non ve lo svelo, mantengo un po' di, così, di suspense. Mentre vi ricordo il numero di SMS dedicato quest'oggi soprattutto a voi ascoltatori che non siete soliti farvi sentire, a quale gruppo d'ascolto appartenete, ma poi siete dei rocker oppure no? Queste sono le domande che comunque sempre girano nel nostro cranio. Vi leggo il numero molto lentamente: 335 100 77 77. Anche perché è entrato nei nostri studi Roberto Fricantoni, sì, lui, l'inventore del rock demenziale, un uomo, un genio, e anche quest'oggi, se gli andrà, inizierà la trasmissione con un almanacco del giorno, speriamo anche con poesia, perché stavo quasi prendendo l'abitudine. Voi no? Lo so, vi capisco. Ascoltatori passivi, ecco come li chiamavamo. No, no, diventate attivi, dai, su. Questa trasmissione la si fa insieme. We'll be right back. Maestro Fricantoni, non abbia paura, entri pure negli studi di Rock FM. Buona giornata. Buona giornata, sono trafelato. Un filo imbarazzato e trafelato, trafelato e imbarazzato. Perché so che sta per arrivare l'almanacco. E certo, iniziamo sempre con l'almanacco, ormai è un'abitudine. Vorrei quindi tentare, vorrei quindi approcciarmi. Sì. Con la poesia dedicata al medesimo almanacco. Che fantastica idea, che ritmo, che feeling. Mi svegli con un poema, grazie. Certo, cioè, perché la radio deve essere sempre così concitata. Ecco, no. Prendiamoci i nostri tempi. Lunedì 11 di febbraio, ode di Fricantoni. Grazie. Scusi, prego. Ode all'almanacco. Grazie. Per quanto duro, per quanto fiacco, il lunedì migliora. Con l'almanacco sembra rozzo, ma è figo un sacco. Sì. Questo nostro almanacco. Che lancio, che stile, che classe! Però non mi ha preso molto sul serio, ho visto bello, che sogghignava sotto i baffi. 11 febbraio del 1858, sa cosa accadde? Si ride della mia poesia. Sa cosa accadde? Che la Beata Vergine Maria, in persona, sì? Appare a Santa Bernadette Soubirous, a Lourdes. A Lourdes. Ecco, rispetto a Lourdes, io vorrei fare... no, una piccola reminiscenza. Sì, me lo posso permettere perché io sono un handicappato mentale, no? Ma ricordo benissimo quella volta che, trovandomi di fronte a un pullman di disagiati, sì, chiesi al conducente: state andando a Lourdes e avete trovato chiuso? si divertirono un sacco. 1959, sempre l'11 di febbraio, sì, fa la sua apparizione in televisione Topo Gigio. Ma cosa mi dici, boy? Ma lei è un imitatore, freak. Sa fare anche Topo Gigio, fantastico. Ma la voce non bene, ma originale non bene. Era di Peppino Mazzullo. Come Peppino Mazzullo, complimenti a Peppino. Però se mi fa ancora cosa mi dice mai? Ma cosa mi dici mai? Fantastico. Cosa mi dici mai? 11 febbraio 1963, una certa formazione denominata Beatles si rinchiuse in una sala degli studi di Abbey Road e in sole 10 ore registrarono il primo album Please Please Me. Che momenti. Che avventura. Please, please me like I please you. Oh, mi viene una domanda, ma lei monotono in quante ore l'ha registrato? Molto meno. Molto meno, e si sente. Tre quarti d'ora. E si sente perfettamente. Passin passetta, arriviamo al 1978. Sì? La Cina mette all'indice le opere di Shakespeare, Aristotele e Charles Dickens, la cui lettura diviene pertanto proibita. Finalmente. No, Mike, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono buongiorno. Cosa vuole dire rispetto a questa notizia? Che stupendo esordio, sì, col gioco di parole. Che c'ha? Mi compiaccio, Chi? Mi compiaccio con uno Stato comunista, nonostante sia comunista, ha avuto un'ottima idea, Qua no, quella di censurare. Censurare, esatto. E anche quel ricchioncello. Cosa dice? Quel ricchioncello dello scrittore inglese più letto dopo Shakespeare. Anche Wilde. Lei sa che Wilde è lo scrittore inglese più letto dopo Shakespeare? Me lo sta dicendo Fricco o Mike Buongiorno? È confuso, Frick, è un po' confuso, questa mattina. Va bene, l'abbiamo capito. Ecco, perfetto. Chiudiamo invece con una lascia bella questo corpo, fuori. Chiudiamo con una bella notizia. Era il 1990 e oggi in Sudafrica venne liberato Nelson Mandela dopo 26 anni di carcere. L'11 febbraio diviene la data simbolica per l'abolizione dell'apartheid. Non dica nulla con le parole di Mike Buongiorno, perché direbbe una stupidata. Lanci la musica. Beh, io vorrei dire una cosina solo con sì, frase tipica da bar, Oh, dopo 26 anni, dopo 26 anni l'hanno liberato quel Nelson. I'm gonna walk by faith on a rainbow. capito, il buon Lenny Kravitz mi va di riffettone classico. Oh, bring it on. Lenny Kravitz. Un saluto da Milano a tutti gli amici e le amiche che ascoltano Rock FM a quest'ora della giornata, che non si mancano, che non si fanno mancare anche. La colazione più rock d'Italia. Come mai mi hanno messo a quest'ora, Spadino, della giornata? Che già sono dislessico al pomeriggio, alle 7:30 del mattino, immaginate come sono conciato. Yeah! Qui c'è un lampione crepuscolare che veglia sopra le nostre teste, e spero sia così anche da voi. L'oscurità lentamente sta cedendo il passo a un nuovo lunedì, a una nuova settimana, e noi di Pane, Burro e Rock and Roll siamo qui, pronti a svolgere la nostra missione, farvi cominciare al meglio, puntellandovi con le nostre stupidate. Ho dato il numero di SMS se ce ne fosse bisogno, e già ho una scarica di saluti che provo a fare. Fabio, Claude, medaglia. Dovremmo riparlare con Claude. Era quello che doveva entrare nella band degli Iron Maiden. Dopo vediamo. Medaglia. Un saluto a Davide, FDM. Il buongiorno io vi dico di sicuro. Io già so che l'almanacco ascolterò solo quando arriverà Fricantoni. Fricantò avrei fatto, ma chissà. Era una poesia? Sembra di sì. Spero. Ale Gianni della caffetteria Ateneo. In ascolto di Rock FM quando il capo non c'è. No, questo non mi piace, ragazzi. Scusa. Anche quando c'è il capo dovreste ascoltare, se no organizziamo qualcosa per convincere il capo ad ascoltarci. Saluti a Lorena. Buongiorno Ariele. Ma sabato sera eri tu o un tuo sosia al garage a Sesto? Un mio sosia, perché io ero all'Atomic sabato. O tu eri in un altro locale e mi hai visto? O era un sosia? Sì, ci sta. No, ho finito la serata all'Atomic, io sono stato lì, non mi sono spostato. Tra l'altro saluto gli amici che sono passati a salutarmi. E tormentone della serata era l'appuntamento. Non so se voi di questa prima ora, perché venerdì, nella seconda parte, abbiamo mandato in onda quella sorta di scherzi, poi scherzi telefonici non sono, quelle giuste richieste di sponsorizzazione che da Pane, Burro e Rock and Roll facciamo telefonicamente io e Frick. Ormai storiche sono le richieste di una macchina, ma già un paio di macchine abbiamo chiesto. Abbiamo richiesto una Duna e non ce l'hanno voluta dare. Alla Skoda c'eravamo quasi arrivati, ma poi il tutto è caduto lì. Venerdì abbiamo proposto queste telefonate a una nota marca di Chinotto, che ci ha dato un appuntamento. Quindi il tormentone di sabato sera, degli amici che venivano a salutarmi, erano consigli utili per l'appuntamento. Abbiamo tutta questa settimana, perché l'appuntamento ufficiale con questa nota ditta che produce Chinotto in Italia è martedì prossimo, non questo, quello successivo. Quindi abbiamo una settimana intera e più per trasformarci in veri uomini da marketing, io e Fricantoni. Ce la potremo fare sicuramente con il vostro aiuto. Un amico mi diceva grafici, Ariele, grafici. In che senso? Gli dice, grafici, quando andate là portate grafici, mi raccomando. E un altro invece mi ha sgridato perché mi diceva, Ariele, voi sbagliate comunque, perché parlate sempre con la segreteria, con i centralinisti, voi dovete puntare al brand manager subito. Adesso ragazzi, veniteci incontro, noi siamo dei veri rocker. I brand manager non sapevo nemmeno esistessero fino alla telefonata di 4 giorni fa, quindi se volete aiutarci noi siamo qui pronti ad imparare giorno per giorno a trasformarci in veri uomini in grado di chiacchierare con dei brand manager. 335 100 77. Tra l'altro mi viene un dubbio, ma c'è all'ascolto un brand manager? No, ti prego, se un brand manager sta ascoltando la mia voce, dobbiamo parlare con te, perché ci devi spiegare tu cosa si deve dire a un brand manager. È offensivo dire brand manager? Ma penso di no. È solo come dire disc jockey, no? Va bene, Rolling Stone, dolci, il miele della vostra colazione. Lady Jane. My sweet